Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. La novelletta, opera 21, numero 5, di Robert Schumann. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e oggi aprirò un nuovo capitolo di queste lezioni di musica che fino adesso ho dedicato nelle settimane scorse alla Winterreise di Franz Schubert. Un piccolo capitolo dedicato a due delle novellette, opera 21 di Robert Schumann. Al centro del discorso sulla Winterreise io avevo messo il rapporto testo-musica, lo straordinario modo con cui Schubert interpreta i testi scegliendone un centro di interesse. Al centro del discorso che proporrò adesso sulle due novellette di Schumann, una oggi e una nella prossima puntata, c'è invece una riflessione sulla forma musicale. Che cosa si intende per forma in musica? Non parlo di modelli formali, sonata, forma sonata, fuga, danze, valzer. Parlo di qualche cosa di più, di qualcosa di più a fondo. Forma è il percorso che il suono compie, il percorso che il gesto musicale, il tema compie nel tempo, è la sua traiettoria. L'arco che percorre, l'architettura che il compositore dà al suo pensiero musicale. Ma andiamo un pochettino con ordine. Innanzitutto, che cosa sono le novellette? Ho detto opera 21. Va ricordato, Robert Schumann nasce nel 1810 come Chopin, e però si differenzia da subito, la sua civiltà, il suo mondo è quello germanico, e c'è subito un'importante differenza rispetto a Chopin. E cioè, Schumann è appassionato da subito, da ragazzo, da ragazzino, anche da bambino, di musica quanto di poesia, e la sua formazione è sull'uno e sull'altro aspetto, è una formazione sull'arte, sulle arti, sull'intreccio tra le arti letterarie, anche la filosofia e la musica. Tra il 1830 e il 1839, cioè tra i suoi 20 e i suoi 30 anni, Robert Schumann scrive soltanto per pianoforte, e l'opera di Schumann è un po' divisa in questo modo: c'è un decennio di opere pianistiche che si concludono con l'opera 23, poi improvvisamente nel 1840, in coincidenza credo non casuale col suo agognato matrimonio con Clara Wieck, pianista e compagna poi per tutto il resto della sua vita, agognato perché l'ostilità del padre di Clara è stata furiosa fino in fondo, improvvisamente nell'anno del matrimonio scrive più di 100 lieder, abbandona la scrittura per solo pianoforte, passerà poi alla scrittura cameristica, poi a quella sinfonica, e ci saranno poche opere pianistiche, ma in questi 10 anni, 9 anni, 30-39, scrive 23 opere pianistiche, ma se si pensa che ogni opera, come il Carnaval, come le scene infantili, è composta da molti pezzi, possiamo dire che in questo decennio Robert Schumann scrive almeno 120-130 pezzi pianistici, di enorme temperatura, di enorme personalità. Arriviamo alle novellette. Perché ho scelto queste novellette? Perché ho scelto le novellette e delle novellette che sono 8, queste due? Innanzitutto, un primo criterio di scelta è dovuto al titolo. Novelletta ha evidentemente un riferimento chiaro a una sorta di narratività musicale. Narratività musicale non va intesa assolutamente come narratività esteriore, cioè non ci sono testi a cui fare riferimento, sono brani pianistici del tutto autonomi in quanto tali, ma è la narratività interna alla forma, appunto, interna alla forma musicale. E in secondo luogo le novellette sono di brani di media lunghezza. Schumann scriveva pezzi pianistici di varie, diciamo, taglie, dai pezzi molto piccoli come le singole scene infantili ai pezzi estremamente ampi come i tre movimenti di Fantasia opera 17. In questo caso siamo in una specie di intermedio. Io ho scelto le due novellette più lunghe e quindi sono brani di una certa ampiezza a dispetto del diminutivo novelletta. Qual è l'idea di forma di Schumann? La forma per Robert Schumann è un vero e proprio flusso di coscienza. C'è un rapporto diretto tra psiche del compositore, ricordiamo che la sua psiche accesa, sognatrice, è in realtà poi stata segnata progressivamente da veri e propri problemi di schizofrenia. Ma non voglio parlare di questo. Quello che importa è che il suo modo di fare musica ha un rapporto diretto, immediato, tra il percorso mentale, il percorso inventivo, creativo e la partitura. Potrei dire che le partiture pianistiche di Schumann sono un vero e proprio grafico della sua psiche, ed è un grafico molto complesso, molto labirintico. Non ci sono brani con le stesse curve formali se parliamo di brani di una certa dimensione. Io ricordo sempre che una cara amica musicofila, non musicologa, musicofila, che amava però anche molto l'ordine in casa, mi aveva detto che non riusciva ad amare Schumann perché ascoltare Schumann per lei era come entrare in una casa in disordine. Ecco, questo ingresso in una casa in disordine è proprio quello che personalmente mi fa molto amare l'ascolto di Robert Schumann. La forma in altri autori come Brahms è una costruzione perfetta e predeterminata, in lui è un viaggio all'interno della propria psiche e della propria invenzione. Adesso prendiamo questa quinta novelletta e proviamo innanzitutto ad ascoltare il primo elemento, chiamiamolo elemento A. Meravigliosa esecuzione che ne propone Dino Ciani ha due effetti. Da una parte mi permette di parlare meno perché molte cose ve le dice già lui chiaramente, dall'altra parte mi inibisce completamente dagli esempi pianistici data la straordinaria qualità e anche velocità della sua esecuzione. Eppure in qualche modo qualcosa vi devo dire, vi dovrebbe essere arrivata una folla di elementi musicali. Se io prendo l'inizio, questa botta nel grave, questo intanto, che cos'è questa nota? Noi saremo in Re maggiore, questo è un La della sua dominante, cioè la nota che tende alla tonica, questa nota dovrebbe risolvere qui. Ma la musica di Schumann, che è una musica che guarda sempre avanti, che è sempre protesa all'elemento successivo, è una musica che detesta risolvere, è una musica che rimane sempre tesa e quindi, se avete ascoltato, la prima frase che parte da questo elemento, che è appunto una dominante, una cosa sospensiva, e poi c'è il tema, alla mia velocità, adesso poi ve lo suono singolarmente, si chiude di nuovo su quell'elemento, cioè si chiude sull'elemento di tensione, non si chiude risolvendo. Questo è il ritratto perfetto del fare schumanniano, disinteressato completamente a chiudere le cose appoggiandosi, ma con una specie di ossimoro, appoggiandosi al punto di massima tensione. Il tema base, se lo facessi in questo modo, potrebbe essere un buon soggetto di fuga bacchiana con queste due quinte discendenti. Ma infatti le radici bacchiane sono le radici che salvano Schumann dalla follia musicale, lo tengono agganciato a un fare estremamente ordinato nel dettaglio, ma folle nella costruzione. Infatti cosa succede? Che nel giro, credo, di 4 secondi ci sono tre elementi. Uno è... il secondo è il tema... ma subito dopo c'è un altro elemento che è in si minore... e siamo già arrivati a... Sarebbe bello farvi vedere anche che avviene una strana cosa. Questo pezzo è in tre quarti, quindi dovrebbe essere un po' danzante, ma succede uno stranissimo sfasamento metrico, per cui mentre la prima volta in battere di battuta c'è questo e il tema e questo è il prossimo battere, la seconda volta è, come si dice, fuori di un quarto, cioè parte prima. Questo non è più il battere, ma è questo il battere. Per chi sa un po' di musica, questa è un'anomalia estrema, perché un tre quarti che si sposta è come un ballerino che anziché appoggiare un piede su un certo battere ne appoggiasse un altro, cioè fuori dal punto di vista metrico. Voi direte, ma non era capace? Certo che era capace, ma vuole aggiungere alle tensioni armoniche motiviche di questo elemento così pieno di elementi anche una tensione ritmica, cioè la musica si sfasa rispetto ai suoi battere. Faccio solo una seconda considerazione prima di passare al prossimo ascolto. Questa zona iniziale che io chiamerò A, perché se volete capire come è fatto questo pezzo dovrete prendere una matita e segnarvi le varie concatenazioni formali, ha un piccolo elemento centrale, che chiamerei B piccolo, che inizia su un accordo completamente diverso. che non risolve mai, dovremmo vederlo poco a poco, ma ci porterebbe lontano con i tempi. Questo bellissimo elemento centrale, speriamo che ve lo ricordiate nell'ascolto che avete appena fatto, vi rimanderò comunque al sito di Radio 3 per l'ascolto integrale, semplicemente non ritornerà mai più nella novelletta, cioè il tema iniziale sì, tornerà varie volte, questo bel piccolo B è già stato dimenticato dall'autore, costruito con progressioni, con spostamenti armonici molto ricchi, ma non gli serve più. Chi inventa molto si permette anche di sprecare molto, diciamo. Dopo questo elemento A, che dura 32 battute, ma meno di un minuto credo, si apre un secondo episodio in tonalità molto differente, cioè in sol minore, il primo era in re maggiore, e di tono completamente diverso. Ascoltiamolo. Quando si ascolta un brano di Schumann ci si chiede sempre se l'accostamento di un episodio ad un altro avviene secondo un progetto, se c'è una relazione tra i due elementi. Quando si ascolta Brahms la risposta è sempre sì, ogni elemento viene dal precedente, è sempre progettato, è sempre frutto di una trasformazione, magari così forte da non rendere riconoscibile la provenienza, ma la provenienza c'è. Nel caso di Schumann in realtà l'impressione è che la risposta sia no, e cioè che l'invenzione procede, l'unico trade union tra i due elementi è una parte interna rispetto a questo elemento che inizia così, ma c'è una parte interna che fa questo, cioè fa delle quinte discendenti che sono un po' come le quinte iniziali del tema, ma molto sinceramente potrebbe trattarsi di una relazione inconsapevole, non sarei affatto sicuro che Schumann fosse consapevole di questo. Una cosa però va detta: mentre il primo elemento ha grandi salti, grandi spostamenti sulla tastiera, occupa immediatamente una bella porzione della tastiera, il secondo sembra strisciare sulla tastiera, e questo sentirete, ne è tutto vicino. Sono tutti gradi congiunti. E allora non si può non alludere in qualche modo ai due famosi personaggi interiori schumaniani. Certo, il primo elemento che abbiamo ascoltato è molto florestano, la sua anima gioiosa, giocosa, intensa, piena di vita. Il secondo è perfettamente Eusebio, cioè l'anima ripiegata, chiusa in sé. E comunque abbiamo già esposto due elementi, l'elemento A e l'elemento B. Sentiamo cosa succede subito dopo. All'inizio di questo elemento avrete pensato è la ripresa del tema, in realtà avrete poi capito che non è vero, cioè prende la cellula principale e ne fa uno sviluppo velocissimo, furioso. Soltanto due osservazioni, anzi forse tre osservazioni veloci ma importanti. Innanzitutto il suo modo di portare in giro il nostro tema, no? È un modo così frenetico, così incalzante da essere l'ossessione dello sviluppo. Non è uno sviluppo beethoveniano o peggio che peggio bacchiano, è l'incalzare estremo di un elemento che si accavalla ed è un modo polifonico di procedere secondo un particolare uso del pianoforte. Il pianoforte di Schumann non è il pianoforte di Chopin. In Chopin il pensiero musicale nasce dalla tastiera, in Schumann il pensiero musicale nasce fuori dalla tastiera ed è semmai un pensiero orchestrale. La sua polifonia è una polifonia di registro, gli elementi si spostano violentemente sulla tastiera che viene sempre occupata tutta. L'altro elemento da far notare è che di solito nei pezzi costruiti con un tema a cui si alternano degli episodi, di solito succede che o si fa in un modo o si fa nell'altro, cioè o si fa A, un elemento B diverso e poi si ritorna ad A, oppure si fa A, uno sviluppo di A e poi il ritorno del tema. Schumann sceglie una via più complicata in questo caso, cioè c'è A, c'è un episodio di B, poi c'è anche lo sviluppo di A e poi si torna alla ripresa, cioè l'inserzione di un episodio e l'inserzione di uno sviluppo convivono in questo pezzo. E che cosa succede subito dopo? Subito dopo c'è di fatto una piccola ripresa, proviamo ad ascoltarla un attimo. Avete capito? Se ben vi ricordate qual era il famoso elemento che incominciava, che era il B piccolo. Chi parla di musica parla spesso di A grande per dire episodi grandi e di A piccolo B piccolo per dire i sottoepisodi di cui sono fatti gli episodi. Se il primo elemento era fatto con degli A piccolo B piccolo A piccolo, in questo ritorno tematico c'è soltanto un A piccolo, cioè Schumann è incalzante, non gli importa di riprendere e di ripetere tutto, non ha tempo, non gli interessa far tornare le cose uguali. Infatti che cosa sceglie? Per essere precisi, il primo elemento che abbiamo ascoltato all'inizio era in forma AB A primo, perché il ritorno era un po' diverso. Lui sceglie solo qui A primo, cioè taglia via le prime due, che è l'atteggiamento tipico di chi è un po' ansioso, cioè non mi interessa l'inizio, prendiamo solo la parte finale, tanto il tema è molto riconoscibile. Su che cosa piomba questa ripresa? Ascoltiamo, succede qualche cosa di diverso. Beh, a questo punto comincerete a capire perché parlavo di labirinto formale. Siamo già arrivati ad avere un A, A, B, uno sviluppo di A, una ripresa di A, un altro episodio che chiamiamo per forza C, che era questo. Questo episodio C, avrete sentito benissimo, che è il più, se volete, mi perdoni Schumann, il più banale, melodicamente di una staticità da far paura, è così. E poi passa qui, ma... e poi ritorna semplicemente su. C'è una nota ossessiva. L'armonia è forse più banale ancora. Questo elemento sembrerebbe essere veramente il punto di riposo compositivo, cioè la musica è statica per una volta e ha tutti i parametri, la melodia è molto povera, dovrei dire quasi insignificante, l'armonia non chiamiamola insignificante, ma certo non si muove molto. Eppure vedrete che inaspettatamente e forse in modo sconcertante Schumann affiderà poi a questo episodio un ruolo piuttosto molto importante, lo vedremo dopo, vi tengo un attimo in sospeso. Che cosa succede subito dopo? La cosa più straordinaria nell'ascolto di Schumann è che quando ascoltiamo un elemento non possiamo mai sapere che cosa ci aspetta dopo, perché il suo gioco è quello di sorprenderci sempre. Che cosa succederà ora? Ascoltiamo. In due parole, un altro grande sviluppo di A, per dire soltanto una cosa, e sono 19 battute, in queste 19 battute l'elemento tematico principale, che è quello che ormai avete a memoria, c'è 14 volte, e cioè più che uno sviluppo è un ossessivo ripetere e portare in giro armonicamente e nel registro questo elemento, l'avete sentito all'inizio, cioè nella parte finale dell'ascolto, a cui segue un'altra piccola ripresa dell'elemento A. Facciamo riassunto: A, B, sviluppo di A, A, C, sviluppo di A, A. Che cosa potrà seguire adesso? Proviamo ad ascoltare. Beh, che cosa può seguire? Questo era un episodio D, naturalmente, ed è evidente che l'episodio D ha una personalità estremamente più forte dell'episodio C. È una vera e propria cavalcata, mi verrebbe da farvi notare che se lo facessi lentamente sembra un corale di Bach, perché così... sarebbe così, ma nel modo furioso schumaniano diventa questa specie di cavalcata delle Valchirie. Ricordo che la cavalcata delle Valchirie non era ancora stata composta. Questo episodio così forte, di così grande personalità, naturalmente non tornerà mai più, perché, ripeto, chi inventa molto può permettersi anche di non ritornare sui propri passi. Che cosa segue subito dopo? È seguito l'ennesimo, il terzo sviluppo, ancora più ossessivo, perché la forma è tutta punteggiata da questi sviluppi di A che ricadono su una ripresa ancora più corta del tema. Che cosa segue a questa ripresa? Ascoltiamo. Segue qualcosa che a questo punto non ci aspettavamo più, cioè non ci aspettavamo che lui ritornasse sui propri passi. È una vera e propria variante o variazione del secondo elemento, dell'elemento B, quello che faceva... che è variato, cambiato, ma che è indiscutibilmente quello. A questo punto abbiamo capito che il suo libro sa anche tornare indietro, che esiste anche la memoria. E infatti a questa variante dell'episodio B segue una coda che, guardate su che cosa è basato. Parlo sopra l'ascolto perché si sta facendo tardi, soltanto per concludere dicendovi che spero di avervi dato, incalzante e veloce come Schumann, il ritratto di un modo di fare, di procedere formale che accavalla i suoi elementi. Il ritratto finale sarebbe A, B, sviluppo di A, A, C, sviluppo di A, D, sviluppo di A, variazione di B, C con coda. Tutto questo in 8 minuti. Sono un tema, vari sviluppi e 3 episodi, comprese 2 variazioni di alcuni episodi. Questo era evidentemente l'elemento C, il più debole, a cui invece Schumann, dopo una novelletta così intensa, affida la chiusa del pezzo. Il flusso di coscienza lo ha portato fino a qua. Se volete ascoltarla tutta, vi rimando al sito di Radio 3. Grazie e buona giornata. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le novellette Opera 21 di Robert Schumann dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.